Sei A. Ascolta e controlla. 1. Dove trovo una farmacia? In via 20 settembre. 2. Non resti qui con noi? Purtroppo no, non resto. 3. Viaggiate in auto o in treno? Preferiamo il treno. 4. Frequentate la scuola superiore? No, frequentiamo il conservatorio. 5. Parlano tedesco? No, parlano olandese.